L'assalto, i mercenari, il giardino di casa, il Venezuela e gli Stati Uniti. Benvenuti a una nuova puntata. Nessun luogo è lontano di Giampaolo Musumeci. Pretendieron realizar una invasión por vía marítima, un grupo de mercenarios terroristas. Yo pudiera mostrarles a ustedes parte del material, material de guerra, una guerra tipo Rambo. Welcome back to our place of work. Buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. Sono le 16.08, in questo esatto istante comincia una nuova puntata di Nessun Luogo è Lontano. La squadra, Antonio Tali, Lara Sesana, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. Oggi in assistenza Claudia Schiattone, in regia Peter Bescapè. 349-238-6666 per sms, per whatsapp, per commenti e per domande sul tema che tratteremo in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Ci sono anche i social, lo sapete, la pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, gli account Twitter da tenere d'occhio, Nessun Luogo 24, ovvero il mio che è Giampaz. Tra i dossier internazionali che avevamo proposto proprio ieri c'è questo strano mistero in salsa venezuelana, forse dovremmo aggiungere in salsa colombiana e financo statunitense. Una storia davvero con molti più punti di domanda che punti fermi, con molte più zone d'ombra che luci. Il regime venezuelano denuncia un tentato golpe, una tentata invasione, dietro vi sarebbero mercenari colombiani foraggiati anche dagli Stati Uniti. Chissà se è l'ennesimo capitolo di una storia che si è ripetuta tante volte, una molto spesso sotterranea ingerenza degli Stati Uniti rispetto al cosiddetto giardino di casa, oppure c'è qualcosa in più. Su questo aspetto anche i vostri commenti e le vostre domande al 349-238-6666, ma Peter, come ogni giorno, andiamo a sfogliare i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta in Sudan perché continua il riavvicinamento diplomatico tra gli Stati Uniti d'America e l'importante paese africano. Il tutto, il riappacificamento e il riavvicinamento tra Khartoum e Washington è iniziato dopo la caduta del dittatore Omar al-Bashir, lo ricorderete, deposto dai militari nell'aprile del 2019 dopo settimane di proteste di piazza, di movimentazione dell'intera società civile sudanese. Oggi il governo di Khartoum ha nominato Nureddin Satti ambasciatore a Washington e questo è un segnale decisamente importante. Perché? Perché quel ruolo era rimasto vacante per oltre 20 anni. Satti era stato ambasciatore del Sudan in Francia negli anni 90, aveva poi lavorato alle Nazioni Unite e si legge in una nota del Ministero degli Esteri di Khartoum, la nomina arriva nel quadro della normalizzazione delle relazioni diplomatiche appunto tra Sudan e Stati Uniti. Non è ancora stata stabilita una data per lo scambio di ambasciatori e il presidente Donald Trump non ha ancora nominato invece un nuovo ambasciatore statunitense in Sudan. Piccola nota, ricorderete che il Sudan in questo momento è governato da un esecutivo di transizione in cui sono presenti sia i militari che i civili. Questo nuovo governo sta lavorando sulla spinta soprattutto della società civile per la rimozione del Sudan nella lista nera dei paesi, la revoca delle sanzioni e sostanzialmente la cancellazione del paese stesso in quella lista che è quella in cui gli Stati Uniti inseriscono tutti i paesi sponsor del terrorismo. Proprio nel febbraio scorso il governo di Khartoum aveva accettato di risarcire le famiglie dei 17 marinai statunitensi che erano rimasti uccisi in un attacco terroristico al cacciatorpediniere USS Cole che avvenne in Yemen nel 2000. D'altra parte vi sono anche tuttora parecchie questioni aperte perché Washington chiede a Khartoum di risarcire anche le vittime degli attacchi alle ambasciate americane nel 98 in Kenya e Tanzania, oltre a riformare interamente il sistema bancario che secondo Washington nei decenni ha permesso occultamento di denari, di denaro e anche lunghe linee di finanziamento d'ombra per movimenti come Al-Qaeda. Arrivano i primi messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo ve ne darò conto. Fatemi andare però prima in Russia. Il primo ministro Mikhail Mishustin era risultato positivo al coronavirus alcuni giorni fa, è stato ricoverato in ospedale e secondo quanto riferisce l'agenzia di stampa russa TASS sta bene, è in contatto con i colleghi del governo per cercare di gestire una situazione che sta diventando sempre più difficile nel paese. Infatti i numeri sembrano essere impietosi. I casi di coronavirus registrati dall'inizio dell'epidemia sono oltre 155.000. Pensate, 10.000 sono nelle ultime 24 ore. Le vittime ufficiali al momento sono 1.451, 96 decessi nelle ultime appunto 24 ore. L'agenzia Bloomberg, in un lungo articolo dedicato alla situazione russa, dice: la gestione dell'epidemia non sta andando secondo i piani, è probabilmente la più grave crisi politica che Vladimir Putin deve affrontare, probabilmente fin dalla Seconda Guerra Mondiale, come è stato per, e come è per tanti paesi anche in Occidente. Quello che preoccupa maggiormente, l'agenzia di stampa Bloomberg evidentemente si occupa soprattutto di economia, immaginate la profonda recessione, un baratro sul bilico del quale sembra essere Mosca. L'economia del paese potrebbe registrare un calo del 9-10%, lo stesso calo, se non di più. I sondaggi che danno un Vladimir Putin sempre meno gradito da parte della popolazione russa. E ancora una volta sottolineiamo come la gestione del coronavirus nei vari paesi stia diventando un'incredibile cartina tornasole, un termometro politico formidabile anche per valutare l'operato dei vari leader. Siria, due andate di attacchi aerei attribuiti a Israele, ma come voi sapete lo Stato ebraico non smentisce né conferma mai nessuno di questo tipo di attacchi. Dicevo, due attacchi aerei registrati in ultime ore, ancora una volta, Siria settentrionale e orientale, i bersagli, depositi di armi di milizie filo iraniane. Lo riferisce il sito di Al Jazeera, l'emittente di Doha. Sarebbe il quinto attacco contro presunti bersagli iraniani nel giro delle ultime due settimane, segno che il governo israeliano sta pestando duro su quelle che sono le componenti filo iraniane in tutto il teatro. La prima serie di attacchi è avvenuta alla mezzanotte locale, erano le 23 in Italia, nella zona orientale di Mayadin, siamo lungo l'Eufrate, non lontani dal confine con l'Iraq, e poi un successivo raid, sempre, lo ripeto, attribuito a Israele ma mai confermato, ha preso invece di mira la zona settentrionale di Aleppo, colpendo in particolare un non meglio precisato centro di ricerche scientifico che era già stato preso di mira in passato. Secondo sempre quello che riporta Al Jazeera, questo centro di ricerca sarebbe uno di quei laboratori in cui le forze governative siriane, grazie al supporto di vari ricercatori iraniani, avrebbero sviluppato armi chimiche usate dal regime di Damasco contro i civili durante la guerra civile. E poi Corea del Sud, perché lo avete sentito anche dal GR24, è il secondo giorno consecutivo che nel paese non si registrano casi interni di contagio da coronavirus, solo 3 i casi registrati, tutti provenienti dall'estero. Fino a questo momento il bilancio parla di 10.804 contagiati, decessi 254. Così Seul, sulla volata di questi risultati decisamente positivi nella gestione dell'emergenza, sta consentendo il ritorno a scuola a partire da mercoledì 13 maggio e quindi un allentamento su quelle che erano tutte le misure restrittive. Le scuole non potranno tornare a essere come erano prima dell'epidemia di coronavirus, tutti noi ci dobbiamo preparare a un nuovo modo di gestire le scuole, così ha spiegato il ministero dell'istruzione sudcoreano Yoon Un-hee in un'intervista rilasciata al The Korean Herald. Per esempio, sensori termici, divisori plexiglass nelle mense, mascherine e gel disinfettanti faranno parte della dotazione scolastica di questi ragazzi, che aggiungeranno evidentemente alle uniformi e agli zainetti anche questi dispositivi di protezione. E sempre stando in tema di coronavirus, prosegue quella che è la querelle, il braccio di ferro tra Pechino e Washington. Lo sapete, viene raccontato in tanti programmi, in quasi tutti i GR, quello che è questo attacco diplomatico senza precedenti da parte di Donald Trump verso la Cina, accusato di aver, nella migliore delle ipotesi, omesso e ritardato quello che era l'allarme. Fatto sta che all'interno dell'apparato amministrativo e sanitario americano, dico sanitario perché sta parlando di Anthony Fauci, che è il massimo esperto di malattie infettive, virologo acclamato a livello mondiale, lo stesso Fauci smentisce la Casa Bianca e dice: non credo alla possibilità che il coronavirus provenga da un laboratorio cinese. Ha parlato in un'unica intervista a Anthony Fauci pubblicata ieri sul National Geographic, testuali parole: guardando all'evoluzione nel tempo, tutto indica con forza che questo virus si è evoluto in natura e poi ha fatto un salto di specie. Parlavamo proprio ieri, ricorderete, del Five Eyes Network, quella rete di intelligence che unisce i servizi di Stati Uniti, Regno Unito, Australia, Nuova Zelanda e Canada. Ebbene, secondo il Five Eyes, Pechino non sarebbe stata trasparente nella diffusione di informazioni del virus, ma niente indicherebbe una falla nel laboratorio che possa aver causato la pandemia. Naturalmente rimangono gli interrogativi su quanto questa mossa di Donald Trump sia un attacco per mettere a frutto quella che è una tensione latente. D'altra parte questo preoccupa molto l'economia, con tutto quello che può accadere nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, o se sia veramente una fonte dell'intelligence americana credibile, affidabile. Per il momento però le prove non ci sono. Questi i nostri dossier internazionali. Adesso, Peter, raccontiamo una storia. En el grupo vienen dos norteamericanos, dos gringos. Están detenidos. Están detenidos. ¿Cuál es su, dónde trabajan, qué hacen, qué son como ustedes? Ellos son intermediarios, como le dije al señor ahorita, que son de la jefe de seguridad del presidente de los Estados Unidos. ¿De Trump? Sí. ¿Quién les dijo? Ellos mismos dicen, vuelvo a repetir sí, eso. Sí, ellos dicen que son, trabajan con la asesoría de seguridad del presidente de los Estados Unidos. ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos? ¿De cuál? Donald Trump. La voce che avete sentito era quella di un prigioniero. Questa è la fine della storia. Il prigioniero ha il viso smarrito, viene interrogato con violenza da un militare venezuelano, ma forse è il caso di fare un passo indietro. Questa storia che vi raccontiamo dalla fine ha un inizio databile a poche ore prima. Io pudiera mostrarle a ustedes. Posso mostrarvi parte del materiale che abbiamo ritrovato. Materiale da guerra. Caschi statunitensi con GoPro. Una guerra tipo Rambo. Una guerra tipo Rambo. La voce che avete sentito è quella di Nicolás Maduro. La storia inizia a Macuto, una cittadina di mare da circa 100.000 abitanti, una delle spiagge venezuelane più famose. I suoi tramonti caraibici sono noti per una tonalità unica di colori che ha catturato l'attenzione di tutti i più famosi pittori venezuelani. Nella notte tra domenica e lunedì, però, i 21 uomini che sbarcano sulla spiaggia da due motoscafi scuri non sono interessati al paesaggio. Secondo quanto riferiscono e secondo quanto avete sentito dalla voce del presidente venezuelano, e si tratta di 21 soldati armati di tutto punto, fucili e visori notturni. Perché i 21 soldati hanno scelto Macuto? Beh, per la sua posizione strategica. La spiaggia dista solo 36 km dalla capitale, Caracas, dove gli uomini intendono arrivare per rovesciare il regime di Nicolás Maduro con le armi. Li abbiamo catturati in nome della legge venezuelana. Avevano in mente un bagno di sangue per il nostro paese. Si sono preparati in territorio colombiano, ma con i finanziamenti del narcotraffico. La versione di quello che segue è confusa. Non è chiaro se gli uomini sui motoscafi abbiano trovato l'esercito venezuelano ad aspettarli già sulla spiaggia, oppure se siano stati fermati nel tragitto tra Macuto e Caracas. Secondo il governo di Maduro, comunque, è scattato un conflitto a fuoco nel quale 8 degli invasori sono morti. Gli altri 13, tra cui due cittadini americani, di cui Maduro ha esibito i passaporti in televisione, sarebbero stati catturati nel corso di un'ondata successiva di ricerca avvenuta lunedì. Per Maduro, come avete sentito, si tratta di mercenari reclutati tra le ex forze speciali americane e affiliati ai cartelli della droga colombiani, che avrebbero però agito su mandato della DEA, l'agenzia antidroga americana. Se sta preparando contro Venezuela. Si stava preparando un attacco terroristico contro il Venezuela ad opera di un gruppo sostenuto e finanziato dal governo della Colombia. Per il governo di Colombia. E mentre Nicolás Maduro tuona, il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti nega qualsiasi coinvolgimento. L'opposizione venezuelana sostiene che Maduro stia cercando di sviare l'attenzione dall'epidemia di coronavirus, dai suoi effetti devastanti sulla già debolissima economia venezuelana e da una serie di rivolte carcerarie scoppiate nel paese. Secondo informazioni fornite al Guardian da una fonte riservata, i due americani, Aidan Barry e Luke Denman, sarebbero nelle mani dell'intelligence militare venezuelana, nota per la feroce repressione contro le proteste della popolazione. Nos mantenemos en alerta y resistencia permanente. Siamo in uno stato di allerta e resistenza permanente davanti alla minaccia che grava sulla nostra patria e risponderemo con forza. De manera contundente. Così la risposta anche di Néstor Reverol, il ministro dell'interno venezuelano. Per chi e con chi lavoravano gli americani arrestati, il 34enne Luke Denman, il 31enne Aaron Barry, entrambi, secondo il presidente, membri dei servizi di sicurezza degli Stati Uniti? Beh, per una figura controversa, Jordan Goodrow, ex soldato americano che oggi detiene, è il proprietario, un imprenditore di una società di sicurezza con sede in Florida, Silver Cop USA. Goodrow ha confermato alla Reuters che le persone arrestate lavoravano con lui, ma in molti, tra cui anche Juan Guaidó, hanno detto di non credere assolutamente a questa storia. In sostanza, potrebbe essere una montatura. Storia che, vi dicevo, ha più punti domanda che punti fermi, più zone d'ombra che luci, rimanda a una dinamica ormai vecchia, vetusta, quella della possibile ingerenza da parte degli Stati Uniti nel cosiddetto giardino di casa, ma anche derive autocratiche nell'America Latina. Un po' di messaggi al 349-238-6666. Mercenari che vanno a fare un colpo di Stato con dietro il passaporto non è un po' strano? Assolutamente. Tanti osservatori e nemmeno quelli più smaliziati hanno immediatamente sollevato questi dubbi. Ma proprio a Macuto devono sbarcare? Con che motivazione? Passare inosservati? C'è una specie di lockdown in Venezuela? Così un altro ascoltatore, e molti di voi si chiedono com'è possibile portare il passaporto in quella che è un'azione militare a tutti gli effetti. Questa versione da operetta della Baia dei Porci, scrive un altro ascoltatore, al vetriolo sembra la classica arma di distrazione di massa degli uomini forti in crisi. Poi c'è un ascoltatore che spero di leggere il... questa è una sfida, una scommessa a tutti gli effetti che raccolgo volentieri, anche se adesso devo fare una precisazione. Comunque l'ascoltatore scrive: esistono i podcast, me li salverò, questo me lo salvo, per poi chiamarti nel caso in cui invece Trump avesse ragione, siamo sulla carrel con la Cina, e farti dire in diretta: sì, il virus era uscito da un laboratorio e Trump aveva ragione. Chissà che ci sentiremo prossimamente. E poi mi etichetta con compagno, scritto con la K, un'etichetta vivacemente icastica, e lo dico con la K. Ma attenzione, non sono io a negare il fatto che il laboratorio è stato creato in Cina. Io riporto quella che è l'opinione di Anthony Fauci, nonché dell'OMS. Se dovessero uscire prove schiaccianti di questa scottante verità, saremmo i primi a darla. Qua non c'è nessuna ritrosia da parte mia, nemmeno, come dire, una connotazione, una coloritura personale su questo aspetto. Fatemi tornare però su questa storia incredibile che arriva dal Venezuela, e lo facciamo con una osservatrice d'eccezione di tutto quello che sono le vicende venezuelane, Marinelli Stremanunno, giornalista italo-venezuelana e autrice di Venezuela, il crollo di una rivoluzione. Marinellis, buongiorno, ben ritrovata, Nessun luogo lontano. Grazie, buongiorno. Allora Marinellis, negli ultimi mesi ci siamo spesso sentiti per commentare la disastrosa crisi economica che ha flagellato il Venezuela, la crisi dei migranti, tanti profughi venezuelani costretti a fuggire il regime di Maduro. Mai avrei pensato, Marinellis, di chiamarti per provare a commentare quello che sembra una trama di un film scritta però farsi anche un po' male. Che idea ti sei fatta, Marinellis, di questa strana invasione militare? C'è molta confusione e noi venezuelani ancora non riusciamo a capire cosa veramente sta accadendo all'interno del Venezuela. E, si vedono fotografie che ti fanno pensare che c'è una montatura dietro di tutto questo, ma dobbiamo anche ricordare che comunque il Venezuela da un po' di tempo che sta chiedendo aiuto, perché è un popolo che è completamente schiacciato, da giorni che le persone in Venezuela non riescono nemmeno a fare la benzina, devono fare file da anche 10 giorni, nonostante ci sia questo rischio di pandemia, non funziona nessun tipo di servizio pubblico, il cibo è impossibile comprarlo, quindi la gente sta anche morendo di fame. Abbiamo visto qualche giorno fa un massacro nel carcere dello Llanos, dove sono stati uccisi più di 50 detenuti perché protestavano perché morivano di fame. Quindi in mezzo di questo contesto non sarebbe strano pensare che c'è una montatura dietro di tutto questo, perché qualche giorno fa il regime aveva messo dei container nella via che collega La Guaira con Caracas. Quindi si pensava che poteva succedere qualcosa. Comunque io non lascerei da parte nessuna ipotesi, sì, perché è un momento così confuso. Già in passato abbiamo vissuto una cosa simile, non è la prima volta che il popolo venezuelano è sotto questa guerra psicologica, permanentemente c'è informazione che gira, tanti trolls che pubblicano delle cose. Viviamo sempre in uno stress quotidiano, quindi può succedere qualsiasi cosa dietro di queste storie. La voce che state ascoltando, i commenti arrivano da Marinellis Tremanunno, giornalista italo-venezuelana. Ricordo il suo libro Venezuela, il crollo di una rivoluzione, edizioni Arcoiris, se volete capire anche un po' meglio quelle che sono state le recenti dinamiche in Venezuela, con una società civile che aspirava evidentemente a un governo differente, una buona parte se non altro, e che è stata totalmente disillusa anche con la levata di scudi da parte di Juan Guaidó, leader dell'opposizione, pur con il supporto di una bella fetta della comunità internazionale, non sta riuscendo a far sentire la propria voce, è un Maduro che sembra rinchiudersi sempre di più in se stesso. Marinellis, com'è possibile provare a verificare quelle che sono le tante informazioni, le tante notizie false che come se si intrecciassero attorno a Caracas e al paese? Esistono fonti affidabili? Si riesce in qualche modo a bilanciare quello che esce dal Venezuela a livello di notizie, o è particolarmente difficile anche per te? È molto difficile. Guarda, io sono in contatto con i miei colleghi che si trovano anche sul posto. Abbiamo diversi modi di stare in contatto, no? Via ovviamente internet. Sì. E per provare a superare, no, questi ostacoli della censura che c'è in Venezuela, perché questo anche lo devono sapere gli ascoltatori, in Venezuela l'informazione che gira sui media tradizionali è tutta controllata dallo Stato, quindi anche quello che esce fuori attraverso le agenzie ovviamente informazione ufficiale, no? Non viene veramente raccontato quello che succede all'interno, e per noi come giornalisti anche quelli che si trovano dentro non riescono a capire che, perché anche c'è la quarantena, quindi non possono girare con libertà per strada, e poi se provano a farlo, perché in teoria i giornalisti possono, si provano a farlo, comunque rischiano anche di essere messi in galera, no? Perché è sempre una dittatura. Io credo che il mio consiglio è aspettare, non fare conclusioni diciamo sotto l'emozione, dobbiamo aspettare un attimino e capire meglio cosa sta succedendo, e che passa un po' questa confusione, sempre prima o poi la verità uscirà fuori, e qui la cosa importante è capire che anche questo regime non è una dittatura tradizionale, quindi non ha nemmeno controllo sul suo territorio. All'interno del Venezuela c'è presenza di tante forze internazionali, dalla guerriglia colombiana fino all'Iran con Hezbollah, quindi può succedere qualsiasi cosa, quindi qua non dobbiamo puntare il dito contro nessuno, qua dobbiamo pensare soltanto che è un popolo che sta morendo di fame e che ha bisogno di un aiuto, e per poter aiutare dobbiamo essere pazienti e capire cosa sta succedendo. Innanzitutto cercare di conoscere per farsi un'opinione, e se è difficile conoscere, sforzarsi per grattare via dalla superficie quelle che sono anche probabilmente abili mosse del regime. Continuiamo a tenere i punti di domanda e mettiamo un punto esclamativo invece sul grazie a Marinellis Tremanunno per essere stata con noi e averci aiutato a districarci un attimo in queste dinamiche così opache. Lo ricordo, Marinellis Tremanunno, giornalista italo-venezuelana, il suo libro Venezuela, il crollo di una rivoluzione, edizione Arcoiris. Buona giornata e buon lavoro. Grazie mille, vorrei nominare l'ultimo libro, si sì? chiama Venezuela, l'Eden del Diavolo, sì? pubblicato da Infinito Edizioni, è quello più recente, dove ci sono anche le voci dei vescovi che raccontano loro, che si trovano lì sul posto, cosa sta accadendo. È un libro veramente che può dare un'idea a cosa soffre veramente il popolo venezuelano. E grazie mille a Marinellis, mi scuso perché citavo evidentemente un libro più datato. Grazie mille Marinellis. Noi Peter andiamo a sentire come vanno le borse, poi la seconda pagina di Nessuno che lontano. Nessun luogo, nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati ascoltatrici e ascoltatori in questa puntata di Nessun Luogo Lontano. Proviamo a capire qualcosa in quella fitta nebbia in cui siamo piombati dopo che è arrivata la notizia di questo presunto assalto, un'operazione militare che avrebbe dovuto far cadere il governo di Nicolás Maduro in un paese che già soffre di sanzioni, di embargo, una crisi economica profondissima, una mala gestione dell'economia, ma tra poco ci andremo. E una serie di problemi che il governo di Maduro non è riuscito certamente ad affrontare, il braccio di ferro con Juan Guaidó, tema divisivo il Venezuela, così come quando parliamo di Israele e Palestina, così come quando parliamo di Iran o di immigrazione, ne siano prova alcuni messaggi che arrivano al 349-238-6666. E ti pareva, scrive un ascoltatore, il golpe orchestrato dagli americani, non nuovi a sponsorizzare colpi di Stato militari in Sud America, diventa una montatura di Maduro con tanto di ospite venezuelana. Ah, prosegue l'ascoltatore, Maduro ha vinto le elezioni, ma i vostri padroni hanno deciso che il Venezuela è una dittatura. Gentile ascoltatore, noi non abbiamo padroni, siamo liberissimi di andare in onda secondo scienza e coscienza, e scienza impone di cercare di trovare le fonti, cercare di verificare e dare voce alla priorità, compreso anche ai messaggi che dissentono da uno degli ospiti, Marinellis Tremanunno. E le fake news ovviamente valgono solo se escono da Siria e Russia, fa eco un altro ascoltatore, altrimenti sono da verificare, lo mette tra virgolette citandomi. Accusare Assad senza prove andava bene per la Cina, o invece smentisce l'OMS, certo in Venezuela è uguale, vero, non ho capito benissimo, ma sostanzialmente mi sembra un attacco a tutti gli effetti, e questo ascoltatore mi prega di usare la coerenza. Un po' più consolidato, strutturato e devo dire apprezzabile il messaggio di un altro ascoltatore, perché gli americani dovrebbero forzare la mano in Venezuela proprio adesso? Di petrolio ne hanno fin troppo, i russi ora non hanno i soldi per rendere il paese una spina nel fianco, stile crisi di Cuba, non è credibile, qualcun altro appunto, al 349-238-6666. Oggi i governi non si fanno più cadere utilizzando uno sparuto manipolo di uomini, si usano sistemi meno muscolari e fisicamente meno rischiosi, un altro ascoltatore, e mai e poi mai con uomini che possono ricondurre ai coinvolgimenti diretti di altri governi, e questo mi sembra una delle osservazioni più assennate. Strano, dicevo, perché il tutto è riconducibile per bocca dello stesso proprietario Jordan Goodrow a una società di base in Florida che si occupa di sicurezza. D'altra parte Jordan Goodrow, ex militare canadese, ex militare statunitense, alcuni teatri tra cui Afghanistan e Iraq, berretto verde pluridecorato, ha deciso di fare della sicurezza la sua carriera. Era salvo poi dire e denunciare pubblicamente: sì, due americani arrestati lavoravano con me. Ma chi è Jordan Goodrow? Navigato, ex membro delle forze speciali, esperto di antiterrorismo e di gestione di situazioni di emergenza, consulente militare e professionista ad operazioni di intelligence. In questo modo si presenta su diverse piattaforme online Jordan Goodrow. Di origini canadesi, laureato in informatica, Jordan Goodrow entra nelle forze armate del suo paese nel 1994, per poi cambiare bandiera e arruolarsi nell'esercito americano nel 2001. Ex berretto verde, veterano in Iraq e Afghanistan, con un'esperienza di 18 anni sul campo di battaglia, una volta congedato, Goodrow apre nel 2018 un'agenzia di sicurezza privata, la Silver Corp USA, con sede a Melbourne, Florida. We manage risk. Anywhere, anytime, any situation. La sua ultima apparizione, domenica 3 maggio al fianco del capitano venezuelano Javier Nieto Quintero, comandante dell'operazione Gedeon. 1700 hours, a daring amphibious raid was launched. Alle ore 17, un audace raid anfibio è stato lanciato dal confine colombiano verso il profondo cuore di Caracas. In questo momento i nostri uomini stanno continuando a combattere. Le nostre unità collocate nel sud, nell'est e nell'ovest del Venezuela sono state attivate. Il comandante Nieto è qui con me, mentre il comandante Sikei è sul terreno a combattere. And Commander Sikei is on the ground now fighting. Secondo le indiscrezioni raccolte dal New York Times tra i suoi ex commilitoni, Goodrow avrebbe partecipato al presunto tentativo di golpe tanto per la promessa di forti contratti per la sua società, quanto per realizzare il vecchio sogno di partecipare al rovesciamento di un regime. Poche ore dopo il fallimento di Operazione Gedeon, Jordan Goodrow è sprofondato nel silenzio, rifiutando di rilasciare commenti e chiudendo il profilo Facebook della Silver Corp. Questa è la fotografia ambigua, devo dire, di questo personaggio che sarebbe dietro, tra gli altri, a questa strana, bizzarra operazione militare, fatemelo dire, come avete sottolineato in tanti, al 349-238-6666. Ci sono altri modi che far cadere un governo con un manipolo di uomini, per quanto ben addestrati. È anche vero che ci sono stati appelli, probabilmente anche internamente, alle forze armate venezuelane, che evidentemente non hanno funzionato. Peraltro, leggendo un articolo della Stampa, il quotidiano torinese inserisce un altro nome in questo fittissimo mistero: Cliver Alcala, chavista della prima ora, oppositore. Cliver Alcala, ex generale proprio dell'esercito venezuelano, e peraltro consegnato agli Stati Uniti lo scorso marzo da Bogotà, ed è in prigione accusato di narcotraffico. Insomma, è veramente una situazione particolarmente complessa. Proviamo a mettere il grand'angolo, a fare un po' di chiarezza e a rispondere anche a alcuni dei vostri dubbi che arrivano al 349-238-6666 con Roberto Darin, inviato del Sole 24 Ore in America Latina. Roberto, buongiorno, ben ritrovato nel Sul Luogo Lontano. Buongiorno a tutti voi. Roberto, innanzitutto, che idea ti sei fatto di questa strana operazione militare? Sostanzialmente le due tesi che sono emerse fino adesso è un maldestro tentativo in salsa statunitense, però c'è, no, è qualcos'altro architettato invece da Caracas per sviare l'attenzione dai reali problemi. Tu che opinione ti sei fatto? Guarda, io mi ero fatto l'opinione di un maldestro tentativo di Maduro di sviare l'attenzione su un problema naturalmente gravissimo che lui affronta all'interno del suo governo, e come sappiamo, oltre alle malsane condizioni economiche del paese, il fatto grave è il petrolio che è crollato. Certo. a zero, quindi questo naturalmente aggrava la posizione del Venezuela e la sua in particolare. Quindi mi ero fatto inizialmente questa idea, poi sentendo qualcuno a Caracas e leggendo più cose possibili, ho anche visto naturalmente che è intervenuto Antonio Guterres, che è il segretario generale dell'ONU. Ecco, il fatto che lui si sia scomodato, come dire, dicendo siamo contrari a una escalation di violenza in Venezuela e sia il dialogo politico e il rispetto per i diritti umani, ovviamente una frase istituzionale da parte di un uomo di una grande istituzione. Però ecco, mi ha fatto in parte rivedere la mia supposizione iniziale, quindi qualche cosa è accaduto. Poi di sicuro in altre occasioni si sono verificati episodi molto maldestri, quindi uno non deve necessariamente immaginare che i golpe siano sempre costituiti da una forma di intelligence avanzata. Lo stesso mini golpe di Guaidó un anno e mezzo fa si è rivelato un flop, sì, eppure aveva un supporto importante da parte degli Stati Uniti, e lui in gennaio dichiarò: bene, ora entro poche settimane le cose saranno invertite al governo del Venezuela, Palacio Miraflores ci sarò io. Bene, questo con 50 paesi, di quasi 50 paesi che hanno riconosciuto la sua presidenza, la sua nomina di presidente autoproclamato. E tutta questa vicenda, come sappiamo, a quasi un anno e mezzo di distanza è finita in nulla. Sì. Quindi, come dire, il ragionamento che possiamo fare è questo, che i tentativi di golpe possono essere più svariati e anche più, come dire, svarionati. Sì. Quindi questo potrebbe apparire come uno di questi. Poi i tentativi di strumentalizzazione, nessuno ha certezza a riguardo, nessun giornale, nessuno si è spinto ad accreditare le parole di Maduro come sacrosante. Di sì. Certo la situazione è complessa e questa vicenda del petrolio sceso a zero ha peggiorato drasticamente il quadro macroeconomico del paese. Non dimentichiamo che il 90% degli ingressi del Venezuela sono in dollari, quindi sì. Il petrolio gratis è per un paese petrolifero la peggiore delle sventure. Questo non va dimenticato, si inserisce in un contesto di debolezza istituzionale, finanziaria, economica di un paese allo stremo con 4 milioni di persone che lo hanno lasciato in direzione di altri paesi latinoamericani. Sì. Anche se però per oggettività non possiamo dimenticare che negli ultimi due mesi si sono registrati, in concomitanza con l'acuirsi del lockdown e del problema coronavirus, ci sono state migliaia di persone, di venezuelani che sono rientrate in Venezuela. Come a dire, anche in Colombia la situazione, che è stato il primo paese di sbarco di emigrazione da parte dei venezuelani poveri, anche in Colombia appunto la situazione è molto compromessa e aggravata dal Covid-19. Certo, la voce che state ascoltando è quella di Roberto Darin, inviato adesso alle 24 ore in America Latina, ben conosce il Venezuela. Tra pochissimo andiamo sulle strade italiane, stai con noi Roberto, perché mi aiuterai a rispondere a un po' di ascoltatori che ci tacciano, mi tacciano in particolare, di particolare faziosità nel raccontare il Venezuela. Tra pochissimo. Nessun luogo è lontano. Ancora buona giornata e ben ritrovati, gentili ascoltatrici, gentili ascoltatori. In questa puntata di Nessun Luogo Lontano, con grande fatica proviamo a dissipare le nebbie che avvolgono un episodio incredibile che rimanda, lo ripetiamo ancora una volta, alle pagine di una sceneggiatura, di un film d'azione, scritta però con alcune sbavature. La mano forse è stata un po' incerta in alcuni momenti nel tratteggiare quello che doveva essere il momento clou di questa operazione militare, un'invasione a tutti gli effetti del territorio venezuelano, fatta con mercenari, probabilmente con l'appoggio di alcune bande di narcotrafficanti colombiani. Poi però spuntano passaporti di due cittadini statunitensi arrestati, il direttore, un ex berretto verde di una grossa agenzia di difesa statunitense, che ammette che i due lavoravano con lui. Insomma, ci sono tutti gli ingredienti di un mistero, di un cocktail, se preferite, difficilmente digeribile al momento. Quindi con Roberto Darin, inviato del Sole 24 Ore in America Latina, dopo aver provato a fare alcune ipotesi, ma qua ci fermiamo per evidentemente sobrietà professionale, possiamo tentare di allargare lo scenario. Lo facciamo con lui. Roberto Darin, stavi mettendo in luce il fatto della monodipendenza economica del Venezuela rispetto al petrolio, e quindi questo è un momento particolarmente delicato. Poi però ci sono una serie di come dire, chiusure, embargo economico verso il Venezuela che negli ultimi anni certamente non hanno affatto aiutato. È così, e come tu dici, le sanzioni economiche che sono state imposte dagli Stati Uniti hanno indubitabilmente aggravato il quadro economico del paese, e quindi la situazione è veramente critica. Questo lo abbiamo sempre raccontato, e questo conferma di quanto forse alcuni ascoltatori mi dicevi tu poco fa. chiedevano non abbiamo mai nascosto né in questa trasmissione né in altri reportage o servizi comparsi a mia firma su Sole 24 Ore, sì. Le difficoltà che vive il popolo venezuelano, e quindi questo per oggettività abbiamo anche raccontato che gode dell'appoggio il governo di Maduro, di Putin e Xi Jinping, quindi Russia e Cina sono dalla sua parte, mentre Stati Uniti e la maggior parte dei paesi europei sono schierati con Juan Guaidó, sì. Quindi questa è cronaca, sì. ed è indubitabile avere la necessità in quanto giornalisti di raccontare come sia composto il fronte delle alleanze e quali siano le problematiche sul campo. Sì. La voce di Roberto Darin, per cercare anche di rispondere in parte a alcuni messaggi al 349-238-6666. Qualcuno chiedeva pochi secondi prima, Roberto, che tu tratteggiassi il risico geopolitico di quella zona. Il Venezuela fa gola ai cinesi, in che rapporti sono i due paesi? Forse tra le relazioni venezuelano-sino-russe in questo momento, forse la Cina rispetto a Mosca è in una posizione di vantaggio, però correggimi se sbaglio, forse potrebbe guadagnare un po' di spazio in America Latina. Che cosa dici? Potrebbe essere questa crisi un'occasione? Dunque, la Cina, non dobbiamo dimenticarlo, ha investito negli ultimi 20 anni una cifra mostruosa, qualcosa come 100 miliardi di dollari in America Latina, in gran parte in Venezuela, in Brasile, in Argentina, quindi la presenza cinese in America Latina ha purtroppo per l'Europa surrogato e sostituito appunto gli investimenti che sono mancati da parte, sì, dell'Unione Europea, e già ora è una presenza significativa. Naturalmente questa crisi politica così delicata ha fatto sì che la Cina scegliesse Maduro e non appoggiasse Guaidó, però ecco, l'impressione che si è rilevata nelle ultime settimane è che la Cina sia talmente sotto pressione in un braccio di ferro con gli Stati Uniti, in cui tutti i giornali riportano in questi giorni, come sappiamo, gli attacchi, le smentite, i controattacchi sulla vicenda Covid, e quindi come dire, in questo momento la Cina ha un fronte interno molto aperto, di credibilità interna, forse per la prima volta da molto tempo l'establishment del governo comunista di Pechino deve fronteggiare una credibilità che è stata leggermente scalfita sul fronte interno, e sul fronte internazionale è stata molto scalfita, perché nessuno crede che sia stata detta tutta la verità, e soprattutto certo, in tempi rapidi. Ecco, quindi la Cina oggi, per rispondere a questo ascoltatore, ha un problema di grosse dimensioni, non solo i costi umani che ha dovuto sopportare per le morti determinate dal Covid, ma le polemiche internazionali che ne hanno scalfito la credibilità e il supposto condizionamento che la Cina avrebbe esercitato al cospetto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, per avere, come dire, un appoggio sovranazionale alle, sì, proprie, in difesa della lentezza con cui sono stati comunicati alcuni dati. Ecco, quindi raccontare le tensioni tra in Venezuela e le alleanze in Venezuela senza tenere in considerazione ciò che sta succedendo sul piano internazionale nel pieno dell'allarme, dell'allerta Covid, sarebbe incompleto. Sì, grazie mille Roberto Darin, lo ricordo, inviato del Sole 24 Ore in America Latina. Grazie Roberto, buona giornata e alla prossima. Buona serata, ciao. Dalla voce di Roberto Darin, firma del Sole 24 Ore, alla vostra voce, un ascoltatore che non erro, ma dal tenore del messaggio potrebbe essere venezuelano, ma probabilmente mi sbaglio. I veri problemi del Venezuela sono le sanzioni economiche e criminali, l'ingerenza americana, così scrive Maduro, presidente eletto per il 66% dei venezuelani, Guaidó presidente ad interim, nominato per gli Stati Uniti, vi sembra giusto? Cosa succederebbe se in Italia Renzi fosse nominato presidente dalla Russia al posto di Conte? Così un ascoltatore che ci propone un parallelo per meglio comprendere quello che appunto a suo parere è un'ingerenza eccessiva. Per quanto ne so io, scrive un'altra ascoltatrice, Erta, la Cina sta tenendo in vita il Venezuela con investimenti mostruosi, e lo avete sentito anche dalla viva voce di Roberto Darin, pur nel tempo stanno mostrando i loro limiti, perché in questo momento la Cina è davvero nell'occhio del ciclone. Se non convincerà il mondo che la sua gestione, soprattutto nelle settimane iniziali del Covid-19, non è stata quantomeno accettabile, non voglio dire virtuosa, e sicuramente dei riflessi a livello di equilibri geopolitici saranno. Qualche altro ascoltatore prima di salutarvi, qualcuno torna indietro a quella che era il mio invito, anche autoinvito, alla sobrietà professionale nel non esagerare nelle illazioni rispetto a questo stranissimo tentato colpo di Stato, e mi risponde perentorio: sobrietà professionale fino a un certo punto, la sua tendenziosità a volte si taglia col coltello e gli fa eco, ma qua poi mi fermo perché l'autoreferenzialità non è particolarmente elegante. La cosa bella è che un giorno vi prendono per antiamericani, un giorno filoamericani, questo testimonia la vostra obiettività. Così alcuni dei messaggi che arrivano al 349-238-6666. Non sapevo di tutti questi investimenti in Sud America della Cina, è una piaga, sarà un problema con cui dovremo fare i conti in futuro. Da un lato compra, investe, in mano debiti e società importanti di molti paesi, però sempre a proprio vantaggio, poi scatena pandemie e ne esce prima e vincente. Bisogna prenderne atto prima che sia troppo tardi, così Claudio, che forse con toni un po' apocalittici e attribuendo un eccesso di dolo, che ancora è tutto da dimostrare, lo ripeto, non è una mia opinione, quando usciranno delle prove certe in contestabili, vi assicuro ascoltatori che ne prenderemo atto, saremo tra i primi a dare la notizia, e ne prenderemo atto soprattutto che assisteremo a un rivolgimento totale, a uno stravolgimento di quelli che sono i grandi equilibri internazionali. L'ultimo minuto e mezzo ancora per i vostri messaggi e i vostri commenti al 349-238-6666, ma anche Facebook, Twitter, Giampaz, nessun luogo 24. Come potrà Guaidó battere Maduro se questo ha le spalle Xi Jinping? Guaidó dovrebbe farsi amico la Cina o la Russia, deve dividere Maduro da Putin e da Xi Jinping. Guaidó ha l'appoggio della comunità internazionale, ma evidentemente non è sufficiente, e comunque dobbiamo continuare a ricordare che c'è una buona fetta della popolazione venezuelana che tuttora è pro Maduro, e su questo non ci piove. E poi vado a un messaggio di Fabio: il tema elettorale in Venezuela è gestito da apparecchiature elettroniche controllate esclusivamente dallo Stato, tant'è vero che nelle elezioni ultime, nelle precedenti, non hanno mai voluto avere osservatori internazionali. È un falso il fatto che Maduro sia stato eletto democraticamente, così Fabio. E poi c'è qualche altro che torna al cosiddetto concetto del giardino o cortile di casa, a seconda delle traduzioni, una dottrina statunitense che affonda le sue radici nel tempo e sostanzialmente dice: attenzione Monroe, se non erro, in quella zona del mondo dobbiamo agire noi e soltanto noi. Un ascoltatore: il Venezuela è da almeno 2 anni sotto attacco Stati Uniti, non capisco come la cosiddetta comunità internazionale non emargini l'amministrazione americana. Ma forse, gentile ascoltatore, la domanda contiene già la risposta: come farà mai la comunità internazionale a emarginare gli Stati Uniti, quando sappiamo che sono, per esempio, in seno alla NATO i maggiori finanziatori, e in seno all'OMS anche, e al Consiglio di Sicurezza dell'ONU sono nel Consiglio ristretto, quindi hanno diritto di veto. Insomma, stiamo parlando di quella che ha tutt'oggi la prima potenza mondiale, e non è facile evidentemente per i paesi, per la comunità internazionale, anche fare la voce grossa. La disinibita politica estera statunitense è sotto gli occhi di tutti, e questo non soltanto recentemente. Detto ciò, Peter mi dice una sola parola: alla quale obbedisco ringraziandovi, ringraziando la squadra in Nessun Luogo Lontano, e dandovi appuntamento domani alle 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.